Come puoi chiedere tariffe agevolate e il contributo libri? Per chiedere tariffe agevolate e il contributo libri ti serve l'ISEE. Per richiedere il contributo libri bisogna presentare domanda online all'inizio dell'anno scolastico nella pagina web della Regione Emilia-Romagna, indicata qui sotto. Se non hai il computer o se hai bisogno di aiuto per compilare la domanda di iscrizione online, puoi prenotare un appuntamento con l'ufficio scuola del tuo quartiere. L'ufficio scuola ti dà aiuto.